Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Guido e Daniela Monero. Leone, le pastiglie dolci dall'Ottocento agli anni 2000, di Alessandra Scaglioni. La storia di oggi è a due voci, quella di Guido Monero, presidente di Pastiglie Leone, e della figlia Daniela, direttore marketing. Seconda e terza generazione della famiglia che ha rilevato e fatto crescere l'azienda e che la gestisce tutt'oggi. Pastiglie Leone nasce oltre 150 anni fa da un piccolo laboratorio di dolci in Piemonte. La nostra storia inizia dal 1857 in un laboratorio di confetteria ad Alba. Luigi Leone incomincia a fare queste pastigliette e quindi da allora, poi dopo qualche anno, si trasferisce a Torino, anche perché poi la clientela a quei tempi era una clientela di nobili, di famiglie facoltose. E quindi si sposta a Torino per dare una maggiore produzione sul luogo di maggior consumo. Produzione e vendita era una grossa confetteria con il retro e le ex scuderie nei cortili della casa dove c'erano i laboratori di produzione. È da una donna che inizia la seconda parte della storia dell'azienda. Quella che arriva fino ad oggi. È il primo dopoguerra. Molti tornano dal conflitto e devono inventarsi un lavoro. E Giselda Balla Monero ha un'idea per aiutare il fratello. Commercio all'ingrosso di dolciumi. Mia mamma, nel frattempo, lavorava in una grossa azienda dolciaria allora di Torino, di Corso Palermo, che si chiamava Dora Biscuit. 550 dipendenti, prima della Prima Guerra Mondiale. Tornando dalla Prima Guerra Mondiale, mio zio non aveva lavoro, siccome era una persona di bellissima presenza e alto. E quindi mia mamma le prepara una scatola di latta con dei campioni di roba della Dora Biscuit e dice: prova ad andare a vendere. E quindi lui ha cominciato con quel sistema lì. Il lavoro funziona. Prende piede. Comprano dolci e pasticceria dalle aziende e li rivendono ai negozi. Comprano anche da Pastiglie Leone, di cui sono i maggiori clienti. E quando sentono che la confetteria è in vendita, decidono di acquistarla. Sono gli anni 30. Comprano la Leone, però mia mamma, quando arriva lì a stare dietro il bancone a fare la confettiera, poi con quei laboratori lì all'interno dei cortili e tutto, lei aveva già una visione più razionale del lavoro, dice: no, cerchiamo un altro locale, spostiamoci. E si spostano in Corso Regina Margherita 242, dove noi siamo stati fino al 2006. Il lavoro si concentra quindi sulla produzione e sulla vendita all'ingrosso, con una piccola rete di vendita, con la produzione delle classiche pastiglie e anche di altri prodotti di confetteria. Solo produzione, mio zio ha organizzato poi un po' di rete vendita e tutto, e l'attività è andata avanti. Hanno affiancato poi altri prodotti, alle pastiglie, altre cose, prodotti di confiserie, caramelle e tutto, e quindi sono andati avanti così. E io sono nato praticamente lì, in Corso Regina Margherita 242. La sede è uno stabile Liberty che, anche se adattato alla produzione di pastiglie e caramelle, conserva i caratteri di inizio Novecento. Bombardata e ricostruita dopo la guerra, è la sede storica di Pastiglie Leone fino al 2006. Intanto l'azienda diventa da regionale a nazionale, con le modalità tipiche di una produzione artigianale. Incominciano a coprire il Piemonte, poi arrivano in Liguria, che la Liguria ha sempre avuto un legame molto col Piemonte, poi coprono Milano, coprono la Toscana e pian piano si allargano a macchia d'olio. Certo, era uno sviluppo un pochettino sporadico, non è che c'era una razionalizzazione bene di tutte le zone, però incominciano a distribuirlo con questo sistema. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Giselda Monero fonde la sua azienda con quella del marito, che appartiene sempre al settore dolciario. È lei la veramente imprenditoriale della famiglia. E così la ricorda la nipote Daniela Monero. Una grande rivoluzione è stato che comunque Pastiglia Leone a un certo punto ha rilevato in realtà un'altra azienda che si chiamava Floris, che era l'azienda peraltro di mio nonno, quindi mia nonna ha rilevato l'azienda del marito, e questo credo che sia comunque interessante, che in realtà la figura credo più importante comunque di Pastiglia Leone dopo il fondatore, che Luigi Leone, che ha dato chiaramente il nome, in realtà è sicuramente mia nonna. Pensare che comunque una donna, cioè tra le due guerre, quindi stiamo parlando veramente di un secolo fa, comincia a fare l'imprenditrice, perché poi in realtà è stata lei ad avere l'idea di mandare il fratello a rivendere i prodotti. Lei comprava i prodotti nell'azienda che lavorava prima con lo sconto dipendenti e mandava il fratello a rivenderli comunque. Quindi in realtà la mente imprenditoriale, la mente commerciale è sempre stata lei. All'inizio erano proprio due stabilimenti diversi, poi siccome comunque la Pastiglia Leone stava tutto sommato andando bene, il nome era abbastanza conosciuto, hanno deciso appunto di fare questa sorta di fusione, di vendere tutto sotto il nome Leone, di trasferire quindi anche gli stabilimenti, cioè sia il personale ma anche tutti i macchinari della Floris in Pastiglia Leone, tant'è che la Pastiglia Leone si è poi ancora ingrandita. Prima occupava metà isolato, poi preso praticamente tutto lì isolato, ha preso anche piano piano ci siamo ingranditi, diciamo, poi siamo arrivati a un punto dove non ci stavamo più e ci siamo ancora trasferiti da un'altra sede. La distribuzione diventa sempre più importante, così come l'organizzazione dell'azienda, che progressivamente si struttura anche con apporti esterni. Dopodiché un altro passo, secondo me, anche fondamentale, è stato poi lo strutturarsi a livello commerciale in maniera un pochettino più performante, perché prima, come spiegavamo, veniva un po' tutto organizzato così alla buona, e invece poi è stato preso un direttore commerciale coi controfiocchi, che poi è stato anche lui ad aiutare, ha costruito una rete vendita davvero un pochettino più razionale, e qua siamo nei primi anni 80. Dopodiché secondo me un passo anche molto importante è stato agli inizi nel 2000, quando abbiamo colorato le scatoline. Sembra una cosa stupida, però nel senso, una volta le scatoline delle Pastiglie Leone erano fatte tutte uguali, erano tutte bianche e cambiava solo proprio la scritta del nome. Tant'è che in realtà l'articolo più venduto dell'azienda non era la scatoletta, ma erano le pastiglie sfuse, cioè noi in realtà eravamo vendute, perché chiaramente la clientela era anche molto diversa da quella di adesso, quindi noi servivamo tutto quello che era negozio dolciario specializzato, quindi confetteria, torrefazione e la drogheria, che comunque e adesso allora non esiste praticamente più, e quindi dove tutto veniva, tante cose venivano proprio vendute a peso. Con la scatoletta cambia il modo di vendere il prodotto, cambiano i canali di vendita e si allarga il mercato di riferimento. Nel 2013 sono state prodotte 3 milioni di scatolette da 30 grammi in 40 gusti. E anche un cambiamento di distribuzione, perché comunque il vendere un prodotto da banco, noi adesso facciamo oltre a questo poi tanti ovviamente prodotti, cosiddetto prodotto da banco, che è un po' il prodotto da bar, più che essere distribuito direttamente deve essere distribuito attraverso degli intermediari, che poi sono i distributori o grossisti grossista sembra una parola un po' negativa, però vengono chiamati così in gergo, che si occupano di raggiungere tutti quei tipi di locali che l'azienda fondamentalmente non riuscirebbe altrimenti a raggiungere, perché dove magari ti prendono un espositore non ha senso, chiaramente costa quasi più il trasporto che non il prodotto. E quindi con quest'idea piano piano, questa è stata un po', diciamo, la partenza anche di questo tipo di distribuzione, che chiaramente anche ha permesso all'azienda di crescere. L'immagine di fatturato, perché poi anche l'immagine lì si è visto proprio ritornare l'azienda anche nei punti di vendita, perché tanti dicevano: ah sì, le pastiglie non le conosco ma non le vedo più. Quando abbiamo incominciato a colorare le scatoline E poi abbiamo anche, cioè siamo di nuovo tornati in bella mostra, potendo usufruire anche dei banchi dei bar, e non solo del dolciario specializzato, che è già un locale di nicchia, anche su un pubblico un pochettino più variegato. Gli ingredienti naturali rendono il prodotto interessante anche per le erboristerie. Facendo un prodotto comunque molto naturale, perché a prescindere dalla pastiglia, di cui poi abbiamo anche vari gusti, magari balsamici, quindi con un certo tipo di utilità, abbiamo poi tutta una serie anche di prodotti. Siamo rimasti praticamente gli unici a fare le gommose proprio con la gomma arabica, che utilizza proprio gli estratti di erbe naturali, non usiamo coloranti artificiali. Quindi da tutta questa tipologia di clientela, un po' noi per recuperare, diciamo, tutto quello che stanno perdendo magari in drogheria, loro perché comunque avevano bisogno anche di un prodotto, la caramellina eccetera, che però rispettasse chiaramente anche un certo tipo di valori, è nato un matrimonio felice, perché comunque come sono diventati praticamente molto importanti dal punto di vista distributivo. Credo che, se parliamo di dettaglio, oramai un quarto dei nostri clienti sono erboristerie, se non più di un quarto. In 10 anni il fatturato è cresciuto di quasi il 50%. Nel 2013 è stato di circa 10 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente. Legame forte e prioritario con il mercato italiano, ma presenza anche all'estero, in Europa, soprattutto in Germania, ma anche negli Stati Uniti e in alcune località del Sudafrica, della Nuova Zelanda e della Russia. In realtà il fatturato è molto più frantumato di quanto uno non possa pensare. Il core business rimane la pastiglia, perché comunque il 38% del nostro fatturato è fatto da tutta la famiglia di pastiglie, che siano vendute in scatoline, in lattine, sfuse o in confezione a regalo. La seconda famiglia però è questa famiglia di caramelle senza zuccheri, detta Leon Snella, che anche ha insomma quasi un 20% comunque di fatturato. Tutto il resto è frantumato in una serie di tantissime altre produzioni che abbiamo, di cui spesso siamo a volte gli unici che continuano anche a farle. La gestione dell'azienda è familiare e la produzione resta artigianale. Noi non abbiamo l'ambizione di diventare una grande industria, noi comunque siamo una piccola azienda che in realtà fa del suo fiore all'occhiello il mantenere un certo tipo di lavorazioni artigianali. Quindi, se uno potesse venire a vedere la nostra produzione, si rende davvero conto, è come se fossimo tanti laboratori artigianali uniti. È ovvio che comunque noi abbiamo puntato su questo tipo di valori, perché altrimenti mio padre, non lo so, per dire, negli anni 80 poteva chiudere tutto, far solo pastiglie e via, no? Cioè, magari da un certo punto di vista economico poteva anche essere una scelta comprensibile e più fruttuosa. Noi abbiamo sempre creduto in questi valori, a prescindere da quella che è la moda attuale momentanea. È chiaro che poi alla fine ci è stato in qualche modo dato ragione, perché questo poi in qualche modo ha avuto un ritorno. E la produzione artigianale Made in Italy piace ai mercati internazionali, dove Pastiglia Leone è presente dagli anni 90. La percentuale di fatturato che arriva dall'estero è di poco inferiore al 15% ed è in crescita. Difatti a San Pietroburgo io ho avuto la soddisfazione anni fa di arrivare lì e nel uno dei negozi di gourmandise, che loro non li chiamano così, di San Pietroburgo, c'erano i nostri prodotti, cioè ti dà anche una soddisfazione, no? Negli Stati Uniti siamo da Dine & De Luca, cioè siamo in tutte le catene comunque un pochettino più di pregio e importanti. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.